Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. Seconda puntata. Quando uscimmo dal Duke of New York, locchiammo, alla luce della finestra più grande del bar, un vecchio ciuccone barbugliante che stava ululando tutte le sporche canzoncine dei suoi padri e faceva blurp, blurp tra una strofa e l'altra, come se avesse una zozza vecchia orchestrina nelle schifose e fetenti budella. Se c'è una cosa che non ho mai potuto soffrire è proprio questa. Non ho mai potuto sopportare la vista di un poldo tutto sudicio, barcollante, ruttante e ubriaco qualsiasi età abbia, ma specialmente se è proprio bigio com'era questo qui. Stava come appiattito contro il muro e ci aveva le palandre che erano uno schifo, tutte stazzonate in disordine, coperte di fango e sguana e robaccia. Così gli saltammo addosso e gli assestammo dei begli sbiffoni cinebrivido, ma lui continuò a cantare. La canzone faceva così: e tornerò all'amor mio, quando tu, amor mio, te ne andrai. Ma quando Bamba gli mollò un paio di pugni su quel fetente truglio da ubriacone, lui smise di cantare e scricciò: avanti, fatemi fuori, bastardi vigliacconi, tanto non me ne importa niente di vivere in un lurido mondo come questo. Allora dissi a Bamba di sospendere un momento, perché ogni tanto mi interessava snicchiare cosa avessero da dire questi bigi esequiandi sulla vita e sul mondo. Dissi: «Oh, e cosa avrebbe di così lurido, secondo te?» Lui urlò: «È un lurido mondo, perché permette che i giovani maltrattino i vecchi come fate voi e non c'è più né ordine né legge!» Stava scricciando forte e agitava le granfie e faceva tutto un cinebrivido di mottate, solo che c'era quello strano blurp blurp che gli usciva dalle busecchie come se dentro ci avesse qualcosa in orbita, o come se un altro poldo lo interrompesse con degli sguerzi volgari. E così questo vecchio Martino continuava a minacciarlo col pugno e urlava: «Non è più un mondo per i vecchi, e questo significa che io non ho paura di voi, ragazzi miei, perché sono troppo ubriaco per sentire il dolore se mi picchiate, e se mi ammazzate sarò ben contento di morire!» Noi si gufò e si ghignò, ma non parlammo. E allora lui disse: «Ma che specie di mondo è questo? Uomini sulla luna e uomini che girano intorno alla terra come moscerini intorno a una lampada, e qua giù non c'è più nessuno che si interessi dell'ordine e della legge. Così potete fare tutte le bastardate che volete, sporchi vigliacchi di teppisti!» Poi sparò un po' di musica labiale, come avevamo fatto noi con i due cerini, e poi ricominciò a cantare: «Oh, cara la mia terra, per te ho combattuto e ti ho donato la pace e la vittoria!» Così gliele suonammo che era una bellezza, con le biffe tutte un sorriso, ma lui continuava a cantare. Poi lo trappettammo e lui cascò giù come un masso, sciaguattando fuori una barilata di vomito birroso. Quello ci disgustò. Così gli si dette lo stivale, un colpo per uno, e poi fu il sangue, invece di vomito, canzoni, che uscì da quel suo vecchio truglio fetente. Poi ce ne andammo per i fatti nostri. Fu sotto la centrale elettrica municipale che incontrammo Billy Boy e i suoi 5 Soma. Dovete sapere, fratelli, che in quei giorni le squadre erano quasi tutte di 4 o 5 ragazzi e si chiamavano autosquadre perché 4 era un numero comodo per un'automobile e 6 era il numero minimo per una ganga. A volte delle ganghe si univano come per fare un migno esercito per le grandi battaglie notturne, ma in genere era meglio andare in giro in numero ridotto. Billy Boy era qualcosa che mi faceva venire voglia di rigettare solo all'occhiargli quella grassa biffa ghignante, e ci aveva sempre addosso quella sniffa d'olio rancido e rifritto, anche quando era vestito con le bucce buone come quella sera. Loro locchiarono noi come noi si locchiò loro, e da tutte e due le parti ci fu come una specie di tranquillo stato d'allarme, perché quello sarebbe stato vero, quello sarebbe stato forte. Quello voleva dire la lisca, lo sgarzo, la cricchia, non soltanto pugni e stivali. Billy Boy e i suoi Soma smisero quello che stavano facendo, e cioè di prepararsi a eseguire qualcosa su di una giovane mammola piagnucolante che s'eran presa, di non più di 10 anni, lei che scricciava più non posso ma ancora con le palandre, Billy Boy che la teneva per una granfia e il suo numero 1, Leo, che la teneva per l'altra. Probabilmente avevano fatto solo la prima parte delle motate sconce prima di darsi a un piccolo poco di ultraviolenza. Quando ci locchiarono venire, lasciarono andare la piccola boccalona, perché tanto ce n'erano un mucchio dove avevano preso quella, e lei corse via con le gambette bianche che spiccavano nel buio senza smettere i suoi «Oh, oh, oh!». Io dissi, tutto somesco e sorridente, «Guarda chi si vede, il nostro grasso fetente Billy Bestia in pisciona. Vieni a prendertene uno nelle berte, se le berte ce l'hai, vecchia gelatina di eunuco». E così cominciammo. Si era 4 contro 6, come ho già detto, ma il povero vecchio Bamba, con tutta la sua bambanaggine, contava per 3 come puro folle e sporco picchiatore. Bamba aveva una lunghissima cricchia o catena a cinebrivido girata 2 volte intorno alla vita e la srotolò e cominciò a sbatterla nei fari, che era una bellezza. Pete e George avevano dei begli sgarzi affilati, ma io, da parte mia, avevo un'ottima lisca tagliagola, bigia ma cinebrivido, e a quei tempi la sapevo far lampeggiare davvero artista. Così si stava lì a squassare nel buio, con la vecchia luna con gli uomini sopra che stava sorgendo, e le stelle che bucavano come coltelli, ansiosi di unirsi allo squassaggio. Con la mia lisca riuscii ad aprire fino in fondo la palandra di un soma di Billy Boy, pulita pulita, senza nemmeno toccargli le macerie. Così, nello squassaggio, questo soma di Billy Boy si trovò improvvisamente aperta come il guscio di un pisello, con la pancia nuda e le povere vecchie berte in vista, e allora si imburianò parecchio, mettendosi a urlare, a gesticolare e perdendo la posizione di guardia, lasciando che il vecchio Bamba entrasse con la sua catena che sibilava «Bsss!» e gliela sbattesse dritta nei fari, così che questo soma di Billy Boy se ne andò fuori dei piedi berciando e incespicando. Noi si lavorava che era un cinebrivido e facemmo in fretta a metter fuori combattimento il numero 1 di Billy Boy, perché Bamba l'aveva accecato con la catena e lui si mise a strisciare per terra ululando come una bestia, e così bastò un bel colpo di stivale sul planetario per mandarlo completamente out e poi out. Di noi 4, come al solito, era Bamba quello conciato peggio in quanto aspetto, vale a dire che aveva la biffa tutta insanguinata e le palandre che erano un disastro, ma gli altri di noi erano ancora freschi e tutti interi. Adesso era quel grassone puzzolente di Billy Boy che volevo, e stavo lì a ballare con la mia lisca come un barbiere a bordo di una nave col mare in burrasca, cercando di fargli un bel paio di 7 su quella sporca biffa oleosa che ci aveva. Billy Boy aveva uno sgarzo, di quelli lunghi a scatto, ma lui era un piccolo poco troppo lento e pesante nei movimenti per scortecciare qualcuno sul serio. E, fratelli miei, per me fu una gran soddisfazione ballargli il valzer intorno, destro 2-3, sinistro 2-3, e affettargli la guanciotta destra e poi la guanciotta sinistra, così che 2 tendine di sangue calarono quasi simultaneamente, una di qua e una di là di quel lurido grugno unto, sotto la luce delle stelle. Il sangue gli scendeva giù come 2 tende rosse, ma si locchiava benissimo che lui non sentiva nulla e continuava a puntarmi col suo sgarzo arrancando come uno schifoso orso grassoccio. Poi snicchiammo le sirene e capimmo che i rozzi stavano arrivando con le forose pronte appoggiate ai finestrini delle autopol. Doveva essere stata la piccola boccalona ad avvertirli, perché c'era una cabina per chiamare la polizia a poca distanza dalla municentrale. «Ti ritrovo presto, non aver paura!» gridai, «puzzone di un Billy Bestia! E ti taglierò le berte per benino!» E loro corsero via, lenti e col fiato corto, eccetto Leo numero 1, che rimase sdraiato per terra a russare. Se ne andarono a nord verso il fiume e noi ce ne andammo dalla parte opposta. Proprio girato l'angolo c'era una viuzza buia, deserta e aperta da tutti e 2 i lati, e ci riposammo lì, ansimando prima forte e poi più piano, e alla fine respirando normale. Era come stare tra i piedi di due terribili grosse montagne, che erano i due isolati di case, e nelle finestre di tutti i gabbioni c'erano delle piccole luci azzurre, e queste erano le TV. Quella sera davano una mondovisione. Il che voleva dire che tutte le persone del mondo locchiavano lo stesso programma, se volevano, ed erano quasi tutti grega media e di mezza età. Ci doveva essere qualche famoso Martino Cretinetti che faceva ridere, o qualche cantante negro, e tutto veniva rimbalzato dagli speciali satelliti TV nello spazio, fratelli miei. Noi s'aspettò un poco, ansimando, poi snicchiammo che i cerini sirenanti andavano verso est, così ora si poteva stare tranquilli. Ma il povero vecchio Bamba continuava a guardare le stelle e i pianeti e la luna, col truglio spalancato come un bebè che non avesse mai locchiato nulla, e disse: «Ma cos'hanno quelli? Cosa si proverà a star lassù su quelle cose?» Io gli detti uno spintone dicendo: «Vieni via, tonno, tu mica ci devi pensare a quelli. Anche lassù ci sarà la stessa vita, con qualcuno che viene accoltellato e qualcun altro che accoltella. E ora, con la cupa ancora gagliotta, rimettiamoci in cammino, oh fratelli!» Gli altri gufarono, ma il povero vecchio Bamba mi guardò serio, poi guardò di nuovo in su, verso le stelle e la luna. Così ce ne andammo giù per la viuzza, con l'azzurro della mondovisione da tutte e due le parti. Ciò di cui avevamo bisogno adesso era un'auto. E così, quando uscimmo dalla stradina, svoltammo a sinistra, perché si capì subito che eravamo in Priestley Place appena locchiammo quella grande statua in bronzo di qualche bigio poeta con un labrone scimmiesco e una pipa infilata nel vecchio truglio bavoso. Così arrivammo al lurido vecchio filmodromo, che ormai cascava a pezzi, col fatto che non ci andava più quasi nessuno, eccetto i malcichi come me e i miei soma, e soltanto per farci un po' di schiamazzi o un po' di vaivieni al buio. Dal cartellone sul davanti del filmodromo, illuminato da un paio di riflettori pieni di porcherie di mosche, locchiammo che c'era la solita zuffa di cowboy, con gli arcangeli dalla parte del maresciallo americano che sparacchiava ai ladri di bestiame appartenenti alle legioni dell'inferno, il solito genere di trucca friggibuco che allora ci serviva alla Statal Film. Le auto parcheggiate lì vicino non erano cinebrivido per niente, delle trucche bigie e scasse, ma l'occhiaio una Durango 95 che poteva anche andare. George aveva una di quelle Polyclef nel suo portachiavi, così ci saltammo sopra al lampo, Bamba e Pete dietro, che sfumacchiavano le loro cancerose come due spocchiosi, e io misi subito in moto. Lei cominciò a borbottare da cinebrivido, una vibrazione bella calda che ti andava su e giù per tutto il budellame. Poi misi giù la patta e ce ne partimmo dolci dolci, e nessuno locchiò un bel nulla. Ce la spassammo un po' in quello che chiamavamo il retrocittà, spaventando i vecchi martini e le vecchie semprocchie che attraversavano la strada e zigzagando dietro i gatti e cose così. Poi pigliammo la strada ovest. Non c'era molto traffico. Così io continuai a pigiare la patta che quasi facevo un buco di sotto e la Durango 95 si mangiava la strada come spaghetti. Presto ci furono soltanto alberi e buio, fratelli, il buio della campagna, e a un certo punto andai a sbattere contro qualcosa di grosso, con dei grandi zughi di grignanti che strillò e fece cic-ciac quando fu sotto e il vecchio Bamba di dietro si sbellicò di gufate. Poi si vide un giovane malcico con la sua quaglia che facevano ciucci ciucci sotto un albero, così ci fermammo e li applaudimmo. Poi ci buttammo sopra tutte e due con un paio di sbiffoni e si ripartì che piangevano. Ciò che ora si aveva in mente era la vecchia visita a sorpresa. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Quella era sempre una cannonata per farsi delle gran gufate e vagoni di ultraviolenza. Alla fine si arrivò in una specie di villaggio. E proprio fuori di questo villaggio c'era un piccolo cottage isolato con un giardinetto intorno. Ora la luna era su bene e questo cottage si locchiava chiarissimo. Così rallentai e misi il freno. Gli altri tre che ghignavano come pochi. E si poteva locchiare perfino il nome sul cancello. Ed era Casa Mia, che come nome era proprio miele strazio. Scesi dall'auto, ordinando ai miei soma di piantarla coi ghigni e di star seri, e aprii questo migno cancello e andai fino alla porta. Bussai pian pianino e non venne nessuno. Così bussai un po' di più e questa volta snicchiai che venivano. Poi tolsero il paletto e la porta si aprì un piccolo poco e locchiai un faro che mi guardava e la porta aveva la catena. «Sì? Chi è?» Era una ciangotta di quaglia, una mammola piuttosto giovane, si sarebbe detto. Così dissi con un accento molto raffinato e una ciangotta davvero signore. «Mi scusi, signora, mi dispiace tanto disturbarla, ma il mio amico e io stavamo facendo una passeggiata e a questo mio amico gli è preso male tutto a un tratto ed è qui fuori disteso sulla strada che si lamenta. Avrebbe la bontà di lasciarmi usare il suo telefono per telefonare a un'ambulanza?» «Noi non abbiamo il telefono», disse questa mammola. «Mi dispiace, ma non l'abbiamo. Dovrà chiedere a qualcun altro». Dall'interno di questo cotteggino snicchiavo il clac clac clac te clac clac di qualcuno che scriveva a macchina. Poi si fermò e la ciangotta di un martino chiese: «Cosa c'è, cara?» «Beh», dissi, «non potrebbe farmi la cortesia di dargli un bicchiere d'acqua? È come svenuto, capisce? Come se gli avesse preso un attacco di svenimento». La mammola esitò un pochetto e poi disse: «Aspetti». Poi se ne andò. I miei tre soma intanto erano scesi dall'auto pian pianino ed erano venuti su strisciando da cinebrivido, mettendosi le maschere, e anch'io mi misi la mia. E poi non ebbi da far altro che infilar dentro la granfia e togliere la catena, perché avevo così infinocchiato la mammola con la mia ciangotta da signore che non aveva chiuso la porta come avrebbe dovuto, dato che eravamo stranieri della notte. Allora si entrò tutti e quattro ruggendo come leoni, con il vecchio Bamba che faceva il suonato come al solito, saltando su e giù e berciando mottate sconce, ed era proprio un bel cotteggino, devo dire. Gufando, entrammo tutti nella stanza con la luce accesa, e là c'era questa quaglia che si rattrappiva tutta, un bel boccone di quaglietta, con due tuberi proprio cinebrivido. E con lei c'era questo Martino che era il suo mugico, con le traveglie di tartaruga sul naso, e anche lui piuttosto giovane. E sul tavolo c'era una macchina da scrivere e tanti fogli sparsi dappertutto. Ma c'era un mucchietto di fogli messi per benino che dovevano essere quelli già dattilografati. E così avevamo un altro di quegli intelligentoni libraioli, come quello che avevamo scapricciato alcune ore prima, solo che questo era uno scrittore, non un lettore. Comunque, disse, «Cosa succede? Chi siete? Come osate entrare in casa mia senza permesso?» Ma la ciangotta gli tremava, e le granfie pure. Così io dissi, «Mai temere. Se nel cuor la paura, o fratello, tu ce l'assi, lungi da te bandiscila, ti prego». Poi Giorgio e Pete andarono in cerca della cucina, mentre il vecchio Bamba aspettava ordine accanto a me, col truglio spalancato. «E questo cosa significa?» dissi, prendendo il mucchietto di fogli dattilografati, e il mugico travegliato rispose, tutto nervoso: «È proprio quello che voglio sapere. Che cosa significa questo? Cosa volete? Uscite immediatamente, prima che vi butti fuori!» Così il povero vecchio Bamba, mascherato da P.B. Shelley, si piegò in due dal gran gufare, ruggendo come una bestia. «È un libro», dissi. «Lei sta scrivendo un libro!» Feci la ciangotta molto grave. «Ho sempre avuto la più grande ammirazione per quelli che riescono a scrivere i libri». Poi guardai il primo foglio e lì c'era il titolo, «Arancia meccanica». E io dissi, «Un titolo ben stronzo. Chi ha mai sentito di arance meccaniche?» Poi ne lessi un pezzettino con una ciangotta molto alta da predicatore. «Il tentativo di imporre all'uomo una creatura capace di sviluppo e di dolcezza, capace alla fine di attingere il succo delle barbute labbra di Dio, di cercare di imporre, dico, leggi e condizioni appropriate a una creazione meccanica. È contro questo che io alzo la mia penna spada». A questo punto Bamba fece la vecchia musica labiale e anch'io non potei fare a meno di gufare. Allora cominciai a strappare i fogli e a spargere i pezzetti per terra e questo poldo scrittore cominciò a dar di fuori da scardinato e fece per saltarmi addosso con gli zughi serrati e le unghie pronte come artigli. Bamba non aspettava altro e ghignando e facendo rrrr e poi ha ha ha mirò al truglio di questo martino, crack crack, prima il pugnetto sinistro e poi il destro. Così cominciò a venir giù il nostro vecchio amico il rosso. Vino rosso a piacere e uguale dappertutto come prodotto dalla stessa grande ditta. E macchiò il bel tappeto pulito e i frammenti del suo libro che io stavo ancora strappando. Frapp, frapp. In tutto questo tempo, la sua fedele e affezionata mogliettina se ne stava lì impietrita accanto al caminetto. E poi cominciò a far delle piccole scriccia quasi a tempo con la musica suonata dai pugni del vecchio Bamba. Poi George e Pete vennero dalla cucina masticando a tutta andare perché si poteva mangiare benissimo con le maschere addosso e non succedeva nulla. George con una coscia fredda di qualcosa in una granfia e mezza pagnotta di brombo con un cogolo di oil nell'altra e Pete con una bottiglia di birra schiumante e una granfiata cinebrivido di una roba tipo plum cake. Si misero a fare «how, how, how», locchiando il vecchio Bamba che danzava, festando questo martino scrittore, finché il martino scrittore cominciò a rognare che tutto il lavoro di una vita era rovinato e faceva «bah, ah, ah», col truglio largo e sanguinoso. Ma quei due, con quel loro «how, how», tutto soffocato dal mangiare, non mi piacquero per niente, perché lasciavano vedere tutti i pezzetti di roba masticata. Era una schifezza, così dissi «piantatela con quel biascichio». Non avevo dato il permesso. Ora tenete fermo questo qui, così potrà locchiare tutto quanto per benino. Loro misero giù la boffa sul tavolo fra tutti quei fogli e trotterellarono verso il martino scrittore che aveva le traveglie rotte ma ancora sul naso, col vecchio Bamba che continuava la sua danza facendo tremare tutti gli oggettini sulla mensola del caminetto. Allora io li spazzai tutti via e non poterono tremare più, oh fratelli, mentre scapricciava ancora l'autore di Arancia Meccanica, rendendogli la biffa purpurea e gocciolante tipo qualche speciale frutto molto succoso. «Va bene, Bamba», dissi, «e ora l'altra trucca, che zio ci aiuti». Così lui fece il forzuto, con la mammola che stava ancora scricciando a tutto spiano, come una sirena cinebrivido, tenendole le braccia dietro la schiena mentre io strappavo questo e quello e quell'altro, gli altri che facevano ancora «how, how, how», e furono dei gran bei tuberi che apparvero alla vista, con i loro piccoli fari rosa in cima, oh fratelli, mentre io lo sbucciavo e mi preparavo per l'immersione. Mentre mi immergevo, snicchiavo urli di angoscia e questo martino scrittore, che era tenuto fermo da George e Pete, quasi riuscì a liberarsi dando di fuori come uno scardinato, con le mottate più sporche che già conoscevo e altre che lui stava inventando. Dopo di me era giusto che toccasse al vecchio Bamba e lui lo fece in una maniera bestiale, sbuffante, ululante, con la sua maschera P.B. Shelley impassibile mentre io tenevo la quaglia. Poi ci fu uno scambio. Bamba e io che afferrammo il martino scrittore sbavante, che ormai non lottava quasi più, solo veniva fuori con delle mottate tavananti come se fosse in orbita col latte corretto in un bar, e Pete e George si fecero la loro. Poi ci fu come una calma. E noi eravamo pieni di odio, tipo. Così fracassammo tutto quel che restava da fracassare, macchina da scrivere, lampada, sedie. E Bamba, era tipico di Bamba, spense il fuoco col piscio e voleva andare di corpo sul tappeto dato che c'era tanta carta, ma io dissi no. «Via, via, via, via!» urlai. Il martino scrittore e la sua zigna non erano più tanto presenti, laceri e insanguinati e rotolanti come erano, ma sarebbero vissuti. Così tornammo all'auto in attesa e io lasciai il volante a Giorgi perché mi sentivo un piccolo poco sgarrettato e tornammo in città per la stessa strada, incappando ogni tanto in strane cose squittenti che finivano sotto.